Ora leggiamo il manifesto in italiano. La leggiamo adesso in italiano, ragazzi. Chi siamo? Siamo persone venute libere volontariamente. Persone che dopo la manifestazione di domenica hanno deciso di organizzarsi proprio qua in Puerta del Sol per continuare a rivendicare la dignità e la coscienza politica e sociale. Non rappresentiamo nessun partito politico né associazione. Abbiamo una vocazione di cambiamento. Siamo qui per la dignità e in solidarietà con le persone che non possono esserci qua. Perché siamo qui? Siamo qui perché vogliamo una nuova società che dia la priorità agli esseri umani sopra gli interessi economici e dei politici. Vogliamo un vero cambiamento nella società e nella coscienza sociale. Vogliamo dimostrare che le nostre società non sono più addormentate e che continueremo la lotta per i nostri diritti pacificamente. Appoggiamo i compagni detenuti dopo la manifestazione e vogliamo il loro immediato rilascio. Vogliamo tutto e lo vogliamo adesso. Se sei d'accordo, vieni con noi. È sempre meglio rischiare e perdere che perdere tutto senza rischiare.